eccezionali il lavoro di PC Way insieme a Taliban, così svegliamo anche insomma quello che prima accennavamo come così momento altrettanto folle rispetto già al viatico pazzesco, potremmo dire, di PC Way. Abbiamo ascoltati con il loro Pestilence and Joy e poi appunto una collaborazione insieme a Taliban. Taliban che è una delle formazioni più eclettiche, forse svia quello che sono effettivamente i Taliban, o quello che perlomeno qua 451 pensiamo che siano, ovvero una formazione, un progetto che prende dal jazz quella forma più libera, quella dell'improvvisazione più libera e più liberata, tant'è che Taliban possono passare da collaborazioni come Daniel Carter, quindi più legate insomma al mondo jazz, seppur insomma anche qua un jazz dalle tinte piuttosto forti, quasi noise, e a collaborazioni con Weasel Walter, quindi la No Wave dei Flying Lattenbackers, e quindi quella free portato a livelli insomma di muro sonoro e di noise, una sorta appunto di snuff jazz. Taliban poi possono fare una sorta anche di divertissement rock and roll, quando addirittura non synth pop, come ad esempio nell'album che anticipava, anzi posticipava questa bella insomma collaborazione con Peace Way. E quindi Taliban costruiscono uno dei più fermenti laboratori per quanto riguarda appunto un continuo creare musicalità e materie sonore tra le più disparate, mischiate e fatte insomma anche esplodere a volte proprio insieme, come d'altronde per certi versi anche con Pissway, con il pezzo che abbiamo ascoltato. Si sentiva quasi una specie di tessitura poi minimalistica che entrava dentro il pezzo, anche qua a ricordare i mondi pieni di eco di un altro grande insomma che fu appunto Arthur Russell, che l'abbiamo ricordato prima con Collin Stetson. E parlando appunto e ascoltando, andandoci ad ascoltare ancora dentro queste 451 estrapolazioni e jazz, è quello che forse il viaggio più notevole dentro un'apertura della free improvisation, quindi un mondo che anch'esso riesce a ricreare sempre dal proprio svolgersi, dal proprio vivere appunto questo l'improvvisazione. E qua tra l'altro appunto tratta liberamente varie materie sonore, tra cui anche appunto è quella che è la matrice insomma jazzistica, in questo caso Bill Arcat, che viene da tutt'altro mondo, quello degli Harry Pussy, quindi un mondo devastato e devastante di noise, e uno dei punti di riferimento negli anni 90 di quello che poi diventerà il nuovo noise americano, insieme a un virtuoso che non è mai tale, nel senso che non scade mai nella masturbazione insomma propria, Chris Corsano, che anche egli come l'intera progettualità Taliban va da collaborazioni ultra noise come Shiflet a addirittura collaborazioni con grandissimi della free improvisation jazzistica come Evan Parker. Corsano poi ha creato anche appunto quell'immaginario tra jazz appunto assolutamente free, quel mondo appunto che nasceva ad esempio da Harry Pussy, quindi tutto quel noise anche piuttosto insomma così virulento, anche se poi a ben vedere sempre con quella operazione insomma che potremmo anche definire intellettuale, ma non lo è, seppure insomma sicuramente ironica, destabilizzante in questo senso anche quello che è insomma l'immaginario di insomma brutalità infinita del noise, che invece appunto in certi momenti prende anche delle venature assolutamente ironiche, autoironiche, folli, deliranti, insomma, come anche appunto le musiche di Bill Arcat con appunto Chris Corsano, che possiamo considerarlo insomma uno dei maggiori protagonisti delle musiche libere, della free improvisation insomma di questi ultimi anni. Ne andiamo a prendere appunto da Raw and Cooked, sempre per continuare questo appunto viaggio che chissà dove ci porterà, dove andremo a imbatterci. Yeah. cavalcata nel delirio di Chris Corsano, si fa per dire delirio ovviamente, e il gioco è piuttosto insomma è creato insomma ad arte sia da parte di Chris Corsano, che forse ha una raffinatezza in più rispetto a Bill Arcat. Ovviamente stiamo parlando insomma di approcci piuttosto noise alla materia jazzistica o parajazzistica o free to cure, e quindi con Bill Arcat si va verso quel noise chitarristico ultra appunto rumorista, e con Chris Corsano si va verso quel mondo che della virtuosità ne fa un'arte assoluta per creare appunto i mondi sì estrapolati dal jazz, dalla free improvisation, ma che ci portano appunto molto lontano, e in questo senso insomma le linee si intersecano secondo tra passato, appunto prima citavamo Evan Parker, una collaborazione con lui appunto di Corsano, ma anche appunto un nuovo modo di approcciarsi al noise, forse più strutturato nel suo farsi insomma, e poi destrutturato, quindi nel suo riuscire poi a decostruire gli stessi codici jazzistici o legati insomma all'improvvisazione, che per quanto insomma sia stata libera e tuttora lo sia, comunque poi negli anni si è anche codificata in una certa qual maniera, se pensiamo sia ai grandi improvvisatori della free, del free jazz, quindi da Albert Tyler a San Ra, per arrivare insomma a Braxton, alla Creative di Chicago, fino anche all'attraversamento appunto europeo, che adesso andiamo a trovare con Matt Gustafson. Prima dicevamo di Matt Gustafson insieme a Colin Stetson, un bel progetto insieme anche. In questo caso Matt Gustafson svedese, già dai primi anni 90, dentro questo modo di approcciarsi alla materia jazz e estrapolare quella sperimentalità di certo jazz anche uscito in Europa, e la microtonalità e la libera improvvisazione, e quel senso appunto comunque di strutturazione anche forte dentro comunque un linguaggio assai sperimentale, anche tortuoso, e che lo porta in questi ultimi anni a produrre una grande orchestra come quella della Fire Orchestra, 24 elementi per questo gioiello di musica contemporanea tra jazz e momenti addirittura cosmici, e rock che si va a impattare con mondi assai differenti, ma che appunto vivono di questa strutturazione forte, che però appunto prevede tante cose, ha talmente dentro le maglie appunto strutturali tante attitudini, tante sperimentazioni appunto sui generi, che lo portano veramente a creare insomma musicalità assolutamente nuove, e ce l'andiamo appunto a prendere Fire Orchestra facendo uno strano mixaggio, strano insomma si fa per dire, tra la prima uscita Exit 1 e Exit 2, due gioielli appunto usciti negli ultimi due anni, che fanno insomma di Gustafson uno dei principali insomma protagonisti, insieme a Corsano. Se con Corsano abbiamo toccato i lidi della New England americana, e qua si va invece nell'Europa del Nord, e quella gloriosa anche appunto della continuazione del free, ricordiamoci poi che negli anni 70 molti free jazzisti si trasferirono proprio nelle lande del Nord Europa, dove poterono continuare insomma a sperimentare insomma in America negli anni 70, in periodo di feroce FM insomma e anche insomma di non certo qual modo riflusso così creativo, rivoluzionario, politico, ci fu appunto questa grande liaison che ha portato appunto figli assolutamente di nuovo geniali come Matt Gustafson, così dal proscenio, insomma, la ribalta. Fai Orchestra quindi con One Exit e Second Exit. Iniziamo con appunto One Exit, tanto per essere insomma corretti filologicamente, e poi passeremo per alcuni minuti anche al Second Exit di Fire Orchestra. So where are the images that no one believed? And where is the room that outgrew the building? Where are the images that no one believed? And where is the room that I grew the building? So exit all areas and fire stay, stay with me. This is our building and this is our jungle. So hold on to the wires and cables. This building exists, it's all pages burned. You see that this building resists the binary burst. And the cables heat up the floors, they cold. Images that no one believes. So where is the room that I grew the building? Please, fire, stay with me. Thank you. Io su questo magma infuocato, assolutamente incredibile, da parte dei grandissimi, a questo punto proprio ci vuole, Fire Orchestra, che fanno veramente di tutto per rendere incandescente questa materia, e ci riescono anche veramente in una maniera magistrale. E vi rimando alla prossima settimana, tra le urla belluine appunto di una delle tante partecipanti appunto di questa orchestra decisamente anche infuocata. Max Macchia quindi vi saluta, fate i bravi, vabbè, comunque nel momento in cui ascolterete Fire Orchestra, ecco, forse avrete l'illuminazione giusta per fare i bravi o qualcos'altro. Ciao, alla prossima.